Uno, due, tre. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Forza amici miei, forza cari ascoltatori, forza debosciati di tutta Italia. Come sempre rallentati dal caldo e dalla sveglia appena sopraggiunta anche oggi. Dai, dai, dai, lo schema Allegri a palla, questo non lo chiamavo da un po', dai, avanti, che tra tre giorni 24 mattino finisce e riprende poi il 31 agosto. E andiamo in ferie 5 settimane. Oggi parleremo di attualità politica e di attualità con Paolo Del Debbio, conduttore televisivo di Dalla Vostra Parte su Rete 4, e con Claudio Velardi, imprenditore. Avremo ospite anche Gianluca Salviato. Chi è Gianluca Salviato? È un italiano che è stato rapito in Libia in passato. Lui ce l'ha fatta, ci sono 4 italiani rapiti da un paio di giorni in Libia. E questa è l'apertura di molti giornali, giornali che andiamo ora a sfogliare. È martedì 21 luglio, il titolo del Sole 24 Ore sulla Grecia: Atene ripaga Fondo Monetario e BCE, borse europee in rally. Questo è il titolo di prima pagina. Mentre la Libia, per l'appunto, amara per gli italiani, Corriere della Sera: italiani rapiti, tutti i misteri. Questo è il titolo di prima pagina. Per Repubblica invece: paura in Libia, rapiti dalle milizie, 4 tecnici italiani. La Stampa: silenzio sugli italiani rapiti in Libia. Per Il Giornale: caos Libia, caccia agli italiani. Il Messaggero: Libia il giallo degli italiani rapiti. Per Avvenire invece torna la questione migranti: chi accoglie e chi no. L'Europa limita le sue quote a 32.000 persone. Un accordo al ribasso anche per il commissario europeo all'immigrazione, che si dice deluso. Libero è tranchant nel titolo: eurotruffa sugli immigrati. Mentre Il Fatto Quotidiano: tasse, il piano non esiste, le coperture non ci sono, i dettagli neppure, perché sabato Renzi ha improvvisato. Questa è la sentenza del Fatto Quotidiano in prima pagina. Mentre l'Unità celebra l'Italia nello spazio, in orbita anche le tecnologie, con un fatturato di 18 miliardi siamo settimi al mondo, l'industria che va bene nel giorno in cui Samantha Cristoforetti viene ricevuta da Mattarella e Matteo Renzi. Però voglio partire dal racconto di questa sentenza, che certamente abbiamo sentito anche il giornale radio, è innovativa, ha fatto scalpore, fa dibattere: il sì al cambiamento di sesso senza intervento chirurgico. È una novità storica, con una storica sentenza della Cassazione. Ora basterà una perizia del medico per stabilire che una persona possa cambiare sesso. Leggo da pagina 21 del Corriere della Sera. È la vicenda che riguarda Sonia Marchesi. Sonia, nata uomo però, Massimiliano, ora non esiste più, ci sono soltanto io. Sonia, finalmente. Commenta così questa donna la sentenza della Cassazione, una sentenza destinata a fare storia perché detterà l'interpretazione della legge sul transessualismo in tutti i tribunali italiani. Sonia Marchesi, di Piacenza, l'età preferisco non dirla, nata uomo, deve vedere riconosciuta la sua identità femminile sui documenti senza essere costretta a un'operazione chirurgica di adeguamento anatomico. Per la legge e da subito è una donna a tutti gli effetti. Nel 99, dice lei, avevo ottenuto dal tribunale l'autorizzazione all'intervento per cambiare sesso, ma non l'ho mai fatto. Mi spaventavano le complicazioni, soprattutto negli anni sono arrivata a un equilibrio. Per me è importante soprattutto che gli altri mi riconoscano come donna. E dunque, con questa sentenza storica non ci vuole il cambio di sesso. Questi tutti i titoli dei giornali sono simili. I giudici: non serve l'intervento per cambiare sesso all'anagrafe. Così è il titolo di pagina 9 della Stampa. Il Giornale definisce la Cassazione, quella della Cassazione, una sentenza shock: se non serve operarsi per cambiare sesso. Addirittura è tutto un dibattito che ci porta in Nuova Zelanda, perché Il Giorno, mettendo il racconto di questa sentenza, affianca la storia della Nuova Zelanda, dove pensate, in Nuova Zelanda da ieri, secondo la decisione dell'Istituto di Statistica del paese, si potrà identificare volontariamente da parte di tutti i cittadini della Nuova Zelanda il proprio sesso come maschio, femmina oppure gender diverse, cioè di diverso genere. Una terza via, un qualcosa di non definibile con i canoni maschio e femmina. Maschio, femmina e l'altro genere, Nuova Zelanda, ecco la terza via. È una decisione, è il primo paese al mondo, la Nuova Zelanda, che dà questa possibilità. Con la presidente dell'Istituto di Statistica dice: crediamo che la popolazione gender diverse lo veda come un passo avanti verso l'essere visibile, contata e capita. Avvenire definisce questa una sbandata, l'ultima sbandata della Nuova Zelanda, né maschi né femmine, pagina 12, mentre il manifesto, vedete come ogni giornale pone la questione in maniera diversa rispetto all'ideologia che porta avanti, il manifesto titola così: finalmente in Italia sesso libero, nel senso della possibilità di scegliere il proprio sesso, non necessariamente legato a un intervento chirurgico agli organi genitali. E beh, chiaramente il dibattito è molto aperto su un tema del genere. Invece, in onore del quarto d'ora di Waroliana, celebrità che non si nega a nessuno, eccolo qui, diventa una star per un giorno, Lucia Rinaldi, pensionata, 67 anni. Voi direte: ma chi diavolo è Lucia Rinaldi? Ma dai, ecco lei che ha fronteggiato il sindaco Marino dicendo: è tutto sporco. Rido perché Lorenzo Nespoli dall'altra parte del vetro mi fa il gesto del sindaco Marino, che effettivamente, connettendo i due indici di mano sinistra e destra uniti, le ha detto: cara signora, immaginate il sindaco Marino che intanto picchietta gli indici così, fatelo anche voi, cara signora, connetta i due neuroni che ha, se ci riesce, prima di parlare, e unendo i due indici. Eccolo qui, ho due neuroni, Porto Marino in tribunale. La signora Lucia Rinaldi viene intervistata da Libero, pagina 11. Ho visto che stavano ripulendo i giardinetti proprio nel giorno in cui arrivava il sindaco e ho detto: ecco, oggi puliscono, visto che viene il sindaco, allora sono andato a fronteggiarlo. E lui ha detto quella frase: connetta i due neuroni che ha. Sì, ma io al momento non l'avevo neanche sentita la frase. Poi mi hanno fatto vedere il video su internet, non ho sentito le sue offese, ma poi le ho capite. E ora gli ho voluto dire io volevo solo dire al sindaco di venire qui anche quando il quartiere era sporco, non quando hanno spazzato tutto, ma adesso sto pensando di agire in sede legale. Col mio avvocato stiamo controllando se ci siano gli estremi per una querela nei confronti del sindaco Marino. Evviva! Il quarto d'ora di celebrità è garantito da domani di Lucia Rinaldi. Non parlerà più nessuno. Vi segnalo un articoletto di Sergio Rizzo, di quelli che fanno molto meditare. Non è l'articolo che vince il premio Mani sul volante, ma poco ci manca. Sergio Rizzo, pagina 29 del Corriere della Sera, la proroga della proroga sulle pensioni delle toghe. Per la serie, la legge è uguale per tutti, ma alcuni sono più uguali. Oggi la Camera vota il decreto che proroga di un anno il pensionamento dei magistrati ordinari che non hanno ancora compiuto 72 anni. Una misura resa necessaria perché altrimenti i ruoli di Cassazione risulterebbero sguarniti. Questa proroga, scrive Rizzo, fa seguito a una precedente proroga di un anno, quando nel 2014 il governo Renzi aveva deciso di riportare l'età della pensione dei giudici da 75 a 70 anni, il che provocò una sollevazione tra i magistrati. Per quieto vivere, a causa anche delle pressioni del Quirinale, si concesse una proroga di un anno. I magistrati in servizio sarebbero andati in pensione a 71 anni anziché a 70. Ora si scopre però che il CSM, pur avendo avuto a disposizione un anno di tempo per avviare le nomine in Cassazione, ha iniziato le procedure solamente lo scorso 1° di luglio, e così ecco la necessità di una nuova proroga, non più in pensione a 71 anni, ma 72. solo i magistrati ordinari, però, il che ha fatto infuriare i giudici contabili e amministrativi, i quali hanno pensato bene di saltare anche loro sullo stesso treno. E in commissione, dunque, è passato un emendamento che proroga di 6 mesi il trattenimento in servizio dei magistrati della Corte dei Conti. E ora ci sono fortissime espressioni per estendere la proroga anche ai magistrati del TAR e ai magistrati del Consiglio di Stato. Insomma, magnifico esempio per un paese con un disperato bisogno di cambiamento, che ci arriva proprio da coloro chiamati ad applicare le leggi. Così Sergio Rizzo e via, di proroga in proroga le pensioni delle toghe, cioè dei magistrati. Ma eccolo qui l'articolo che vince oggi il premio Mani sul volante, l'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata. Nel giorno in cui prosegue felice la 116esima settimana decisiva per l'abolizione delle province, Libero racconta i travet delle città metropolitane, perché adesso non si possono più chiamare province, ma esistono comunque, specializzati nella battaglia navale. Ebbene sì, è il racconto di Dino Bondavalli, di alcuni dipendenti della provincia di Milano. Per loro stessa ammissione, uno di questi confessa, in attesa di un incarico senza risorse, perché lo dico io, non è colpa loro, ma di una riforma del piffero che hanno fatto, uso del piffero perché oggi mi va bene così, in attesa di un incarico e senza risorse, i dipendenti delle ex province se la spassano. A Milano impazzano le carte e i videogame. Tanto qui non arrivano più telefonate. Si ricorda la celebre frase del film di Fantozzi in cui il Travet gioca a battaglia navale. D6 affondato. Già. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Agino, chi è che legge i giornali? È forse il picciotto Alessandro Milan. E vabbè, 0246524492, grazie, perché sapete che vi ho chiesto una sigla personalizzata con tutti i dialetti, dal Trentino alla Sicilia. Oggi c'era la Sicilia e poi in passato abbiamo avuto anche altri. E avanti così, che poi da settembre le utilizzeremo tutte. Allora, tra l'altro di Sicilia tra poco parleremo, perché c'è ancora la questione Crocetta ben presente sui giornali italiani. Prima però parliamo di Libia, dove sono spariti nel nulla e davvero al momento c'è solo silenzio nei confronti di 4 italiani, che sono Gino Tullicardo, Fausto Piano, Filippo Calcagno, Salvatore Failla. Sono 2 siciliani, uno di Roma e uno di Cagliari, che lavorano nel colosso della manutenzione Bonatti di Parma. Lavoravano in Libia, nel centro di Mellita, all'impianto della Mellita Oil and Gas. 4 italiani che da domenica sono nelle mani di rapitori libici. Ora, per il momento si fanno tutte le varie ipotesi, c'è chi dice che siano stati rapiti per estorsione, altri ovviamente sono scenari più brutti e speriamo che non sia così, siano stati rapiti da fanatici o terroristi islamici per altre intenzioni. L'articolo che vi segnalo è però di Carlo Bonini su Repubblica, perché racconta uno scenario senza infingimenti, ed è questo, si capisce già dal titolo, la rabbia del governo, la loro azienda li ha mandati allo sbaraglio. Questo è il titolo di pagina 2 o 3 e 3 di Repubblica. Per la verità sono tutte dichiarazioni non ufficiali, nel senso che il ministro degli esteri Gentiloni non ha detto niente del genere, ma Carlo Bonini, andando un po' a sentire le fonti di intelligence, racconta questa, è una gran brutta faccenda da qualunque parte la si voglia prendere, soprattutto se il sequestro dovesse avvitarsi, come purtroppo scontato prevedere, nel gioco infernale della polveriera libica. Ed è capace questo sequestro di scatenare la profonda irritazione di Palazzo Chigi, dunque del governo, scrive Repubblica, semplicemente incredulo per le modalità in cui il sequestro è avvenuto. E ancora la stessa fonte dice: C'è stata un'incredibile leggerezza delle aziende italiane strategiche impegnate in un quadrante di mondo dove l'Italia non ha più un'ambasciata, dove i protocolli di sicurezza devono essere stringenti, ma non hanno evidentemente saputo proteggere i propri dipendenti integrando le proprie procedure. Si riferisce alle due aziende, l'ENI e Bonatti, appunto. Nel senso che, racconta Repubblica, sono arrivati lì, hanno preso dalla Tunisia un pulmino guidato da un libico per andare in Libia, a Mellita, che non dista tantissimo dal confine appunto con la Tunisia. Però il concetto è questo: hanno preso un pulmino senza scorta, come se fosse un servizio di autobus, per andare in Libia, un paese invece allo sbaraglio. E da qui, scrive Repubblica, l'irritazione del governo per le mancate precauzioni. Il Secolo XIX racconta di uno dei rapiti, lo spezzino Gino Pollicardo, che pochi giorni fa, lo racconta Sondra Coggio a pagina 3 del Secolo XIX, pochi giorni fa aveva risposto a un amico che gli aveva scritto: ma non hai paura di andare in Libia? No, non ho paura, aveva scritto via mail. Conosco bene la Libia e giù all'impianto abbiamo preso tutte le precauzioni. C'è un pullman sempre pronto a portarci via in qualsiasi momento del giorno e della notte. Il confine è vicino e in caso di necessità in pochissimo tempo ce ne possiamo andare. Ecco, aveva risposto così all'amico che gli aveva chiesto della Libia, di come si sentisse, una delle persone che in realtà è stata rapita. Sulla Stampa, ma in mezzo anche qui il silenzio assordante, Domenico Quirico, inviato che è stato rapito in Siria per vari mesi, rilancia ancora una volta la domanda: Occidente disattento e pavido? Scrive Domenico Quirico in prima pagina: perché siamo così disattenti? È possibile che solo un rumore improvviso, una strage, un sequestro, un atto ancor più ribaldo ci costringa a un tratto a sentire il roboante ticchettio del vulcano che fa traballare noi tutti, separato solo da un tratto di mare? Lo scatenato motore che da tempo ha legato il mondo alla sua cinghia, dettandogli quel ritmo che noi possiamo seguire o perdere, ma cui non riusciamo più a opporre un ritmo diverso, di cui non potremo più liberarci o renderci indipendenti tappandoci le orecchie. Eppure questa Libia, distante un volo di rondine, è trista e fa dolore. Eppure non è difficile constatare: in Libia tutto è stato svelato, tutto ha mostrato il suo vero volto, tutto è diventato più vero, il ribelle si è trasformato in omicida, la politica in delinquenza, la religione in una grande fabbrica di sterminio, la legge è diventata la regola di un gioco sudicio, la libertà fuggevolmente conquistata si è convertita in prigione, ogni ideale sembra insanguinato dalla cruda realtà, dalla violenza, dalla distruzione, eppure non sappiamo che fare. Così Domenico Quirico fa una sorta di appello accorato all'Occidente disattento e pavido. Questo è il titolo dell'editoriale sulla Stampa di oggi. Nelle 8.40 avremo ospite Gianluca Salviato, che è stato rapito in Libia, è stato vari mesi in mano ai rapitori, poi, fortuna per lui, è tornato a casa. Venendo alla politica italiana, continua a tenere banco il caso Crocetta, la famosa intercettazione che c'è, forse non c'è, svelata dall'Espresso, in cui il medico Tutino arrestato avrebbe detto: Lucia Borsellino, assessore alla sanità e figlia del magistrato, va fatta saltare in aria come il padre. Oggi Crocetta fa due nuove interviste e contrattacca, una al Manifesto, una a Repubblica, dice più o meno le stesse cose. Su Repubblica, intervistato da Antonio Fraschilla, Crocetta, uno che va sempre va sempre leggero e non usa mai iperboli, dice: quello che si sta verificando nei miei confronti è il fatto più ignominioso della storia d'Italia. Al confronto il caso Boffo era roba per ragazzini. Dice: questa intercettazione non c'è, sfida l'Espresso a tirarla fuori, a dimostrare che esiste. E poi dice: da mesi mi dicono di pezzi di servizi segreti deviati che costruiscono finti dossier sul mio conto con le notizie più incredibili, da miei rapporti sessuali col medico Tutino a tendenze pedofile fino a problemi con la polizia in Tunisia. La verità è che ci sono queste telefonate in cui lei con Tutino e Sampieri parlavate di nomine della sanità, tutto alle spalle della Borsellino, suo assessore. Come spiega queste telefonate? Io ho solo chiesto informazioni a loro su alcuni nominativi, non ci vedo nulla di male. Non ci vede nulla di male, ma ci vede qualcosa di male Lucia Borsellino. Lucia Borsellino, dopo il silenzio di qualche giorno, viene intervistata ancora su Repubblica. Sono due pagine di intervista, pagina 6 e 7, intervistata da Enrico Bellavia ed Emanuele Lauria. Lucia Borsellino è chiara. Tramavano sulla sanità, Crocetta mi taceva tutto, sono stata isolata dal primo giorno, ecco perché lascio. Quello che avevo da dire sul clima di diffidenza e ostilità l'ho riferito agli organi inquirenti. Fin dal primo giorno, dice Lucia Borsellino a Repubblica, ho avuto ben chiaro che nei miei confronti c'era un clima di ostilità e diffidenza. Le prove le superavo, ma la lealtà non è cieca. Ho lavorato con entusiasmo, valorizzando gente che come me crede nella possibilità di rilancio della sanità siciliana, ma ho deciso di interrompere questa esperienza quando ho avvertito la grande distanza che vi era tra me e le reazioni pubblicamente rese dal presidente Crocetta di fronte all'arresto del dottor Tutino, volte a minimizzare quanto accaduto. Diciamo che c'erano cose di cui io, l'assessore, non ero a conoscenza. Insomma, c'era un governo parallelo della sanità siciliana, ci sta dicendo. Non posso spingermi a tanto, ma quel che viene fuori non mi pare smentisca questa affermazione. Insomma, io sono stata leale con il presidente Crocetta, mentre lui non mi ha detto tutto. Chissà questa puntata se è l'ultima, ma credo proprio di no, anche perché Il Fatto Quotidiano con Giuseppe Lo Bianco racconta che forse questa intercettazione qui riferimento all'Espresso è in un fascicolo a Caltanissetta, dove nessuno però conferma. Forse è un'intercettazione ambientale, forse no, forse esiste, forse no, non si sa. Intanto Crocetta pare, secondo il Corriere della Sera, sia pronto a dire facciamo due o tre riforme e poi tra un mese dirò che non posso dimettermi, ma sono disponibile a capire se la legislatura può andare avanti. Insomma, fa capire Crocetta che in tempi brevi, nel giro di un mese, si potrebbe decidere di andare a votare in anticipo in Sicilia. E adesso, paradossalmente, chi frena sulla Sicilia? Chi frena? È Matteo Renzi. Questo almeno racconta il Corriere della Sera con Maria Teresa Meli. Crocetta è pronto a farsi da parte tra un mese, mentre Matteo Renzi, retroscena di pagina 9 del Corriere, capisce che se cade Crocetta ora consegniamo la Sicilia al Movimento 5 Stelle, e così vale anche per Roma con Ignazio Marino. E allora Renzi ha l'obiettivo di far tenere Crocetta su in piedi al governo almeno fino a dicembre, perché se andiamo a votare a ottobre la Sicilia la consegniamo al Movimento 5 Stelle. Ma come al solito, eccoci qua, l'uomo delle questioni risolte. Allora, caro Mauro Meazza, si andrà a votare a ottobre o no in Sicilia? Buongiorno, buongiorno Alessandro. Ma non saprei, mi sembra che vogliano aspettare il tuo rientro dalle vacanze. Più questo sicuro, ottobre io sono perché già ben che rientrato. Perché a ottobre dovresti essere tornato. Ma di gran lunga, guarda. Ne ho parlato anche ieri, ho parlato male di te naturalmente al direttore personale, ha detto che va bene, che puoi andare in vacanza. Va bene, però non abbiamo parlato del numero di settimane, quindi forse su ha detto magari puoi rimanere eternamente in vacanza, forse ha detto. No, questo non l'ha detto, questo a onor del vero non l'ha detto. Comunque approfondiremo poi vis-à-vis, invece ti volevo dire, tu sai che abbiamo bisogno di una manovra da 23 miliardi comunque ecco, hai capito che vanno a fare un po' di tagli di spending eccetera, se tu non l'avessi capito leggi sulle 24 ore di oggi laddove si ragiona appunto di questa spending 2.0 perché così sarebbe stata ribattezzata. C'è tutta una serie di misure tra cui appunto interventi sulla sanità e interventi anche sugli enti locali. E a proposito di enti locali, siccome nello shock fiscale annunciato al Presidente del Consiglio c'è il superamento della TASI, ti ricordi la TASI? E come no? Non c'è più, no? Non c'è più? No, c'è ancora, calma. Servirebbero un 3 miliardi e 4 e solo per la prima casa, più un altro miliardo e 2 per... Che li avevamo già tolti. Poi li avevamo rimessi. però mi sa che servono. Tu prova a leggere quello che scrivono oggi sia Francesca Milano che Gianni Trovati, diciamo ipotesi di sconto, ma anche poi c'è la difficoltà, non è la prima volta che cerchiamo di togliere o togliamo le tasse sulla prima casa, ma poi sempre c'è qualche problemuccio. Così come c'è qualche problemuccio, prendo leggendo le pagine di Impresa e Territori che tu invece leggi superficialmente, e me ne lagno di questo, che c'è, come dire, c'era un provvedimento per la digitalizzazione delle PMI, sì, e però mancano i fondi, si sono dimenticati di stanziarlo. È una roba addirittura di un annetto fa e sta lì, però non stiamo aspettando, aspettiamo firme, fondi, mica solo per quel provvedimento, ce ne ha diversi che stanno in questa condizione, tutti su rilancio, misure appunto per la digitalizzazione, l'innovazione e così via. Ma tu guarda bene le pagine di Imprese e Territori, perché oggi è martedì, sei andato direttamente al condominio, là dove si parla di rumori molesti, vero? Sì. Perché parliamo del difendersi dai rumori molesti, ma per dire, uno sta sentendo Radio 24, alza troppo il volume e disturba anche il vicino. Attenzione, c'è anche il rischio del penale. Non vorrei sottovalutasse questa cosa. Inoltre, scusami, mi ricordi a che settimana sei arrivato per l'abolizione delle province? 116esima, decisiva. Ok, allora devi aggiungere in altre 14. Oh. Come faccio a fare questo conto? 130, perché leggo, perfetto. Perché leggo norme e tributi del Sole 24 Ore. Perché leggendo lì ho appreso che nel decreto legge enti locali c'è questo, diciamo, questa agenda per superare, per completare la riforma delle province, tra cui appunto le inerzie delle regioni. Superare le inerzie delle regioni, termine ultimo al 30 ottobre. Se non ho sbagliato i conti, da oggi farebbero altre 14 settimane. Conteremo, quindi conteremo. Prova a contare e ricordati che giovedì 23 luglio c'è la scadenza per consegnare il 7:30. Tienilo presente. Va bene. Molto bene. E allora, caro Alessandro, traffico! Alessandro Milan e i suoi due urini, il prestito ponte dell'informazione. Eh sì, con questo prestito ponte andremo molto lontani, tipo Abbiate Grasso, e poi... e poi ci fermeremo. Va benissimo, cari ascoltatori. Allora, come ha detto, c'è il grande dibattito sulle tasse, come abbiamo sentito, gli annunci, come ci ha detto Mauro Meazza, di Renzi, li rispetterà, non si sa. Intanto ci sono le coperture per Il Fatto Quotidiano, è tutta una bufala. Il Fatto Quotidiano fa un articolo dicendo è tutto finto, in realtà non ci sono le coperture. Giuliano Ferrara invece gode, gongola sul Foglio, lui che dice: ho il copyright, sono il titolare dell'equazione Matteo Renzi come Silvio Berlusconi, quindi ne godo, chiedo i diritti. Ora dicono che non è come Berlusconi, è Berlusconi, per via delle tasse, l'annuncio folgorante, eccetera, la casa, il lavoro, l'impresa, le pensioni, lo sfondo elettorale al 2018, e metteteci anche la furbizia, un tanto di candore, tempismo, il perseguimento di una maggioranza nazionale trasversale, la bella Italia, tutte cose che fanno venire il voltastomaco agli esteti e l'acquolina in bocca a cittadini, imprenditori, anziani. Sono titolare dell'equazione Matteo Silvio, ne godo, certo, chiedo i diritti, ma poi cerco di ragionare. Fa tutto un ragionamento Giuliano Ferrara, tra cui queste righe: Berlusconi ha cominciato assumendo un Letta, Gianni Letta, fiore della politica di partito. Renzi ha cominciato licenziando un Letta, la rosa appassita del politicismo. Può dunque fare come il predecessore, per certi aspetti perfino meglio. Il suo non è un governo di coalizione, è l'esecutivo del Presidente del Consiglio. Secondo, sono ragazzi, non hanno fardelli, pagano giusti tributi al potere, ma non una lira di più del necessario, non giocano a poker come Tsipras o Alexis Troikas e Yanis Varoufakis. Sono di questo secolo, hanno tutti la PlayStation, ridono delle ideologie, fanno i furbi quando e come vogliono, ma la sanno lunga. Blair ha esercitato per 3 mandati, ha fatto forse anche meglio della Thatcher, perché parlava dalla tribuna compassionevole dell'ideologia contemporanea prevalente, quella di sinistra, eppure non offriva illusioni, bensì certezze, la via al lavoro, la via al guadagno, ma che cose volgari, una via felice, una tecnologica, innovativa, lastricata di cattive intenzioni. Questo Giuliano Ferrara, che scrive sul Foglio: ah, che goduria Matteo Silvio sulle tasse. E invece c'è poco di goduria se si guarda questa Europa che compie l'ennesimo scempio sul tema profughi. Ricordate la riallocazione degli immigrati che dovevano essere redistribuiti, circa 40.000, 48.000 tra i vari paesi europei? È arrivato l'accordo nell'Unione Europea, ma ne prendono solo 32.000, con il commissario all'immigrazione Dimitris Avramopoulos, che lui stesso ammette: sono deluso che non si sia arrivati a questo accordo. È stato fatto uno storico passo avanti nelle politiche europee, ma l'accordo è incompleto. Profughi, gli stati si sfilano, l'Unione Europea si ferma a 32.000. Beh, non so, l'Ungheria, che doveva prendere 827, ne prende zero. Beh, l'Ungheria sta facendo pure il muro. L'Austria doveva prendere 1.213, ne prende zero. Grazie, Austria. L'Estonia doveva prenderne 738, ne prende solo 130. Grazie, Estonia. Poi la Germania, la cattiva Germania, doveva prenderne 8.736, ne prende di più, 10.500. Cattiva anche la Merkel, è cattiva. Io continuo a dirlo, io affiderei le mie chiavi di casa ad Angela Merkel. L'ho scritto su Twitter e l'economista Bagnai mi ha risposto: con le tue chiavi di casa fai ciò che vuoi. Ma infatti, con le mie chiavi di casa, se fossi il governo italiano, affiderei le chiavoni di casa Italia ad Angela Merkel. Sistemaci tu. L'ho detta grossa. Ah, a proposito, è il momento di svelare il famoso piano B. Ve lo ricordate il piano B? Renzi, abbiamo un piano B se l'Europa ci volta le spalle sui migranti. Ora, ci ha parzialmente voltato le spalle. Gradirei sapere a questo punto il famoso piano B. Facciamo da soli, è il momento di svelarlo, caro Matteo Renzi, perché se non è questo il momento, visto che ci hanno voltato le spalle, se questo piano B esiste, sveliamo questo piano B e risolviamo la questione. Vabbè. Cosa c'è da dire ancora? C'è di cronaca ancora molto su questo ragazzo di 16 anni, Lamberto Lucaccioni, che è morto per aver preso una dose massiccia, si scopre, di ecstasy. Ed era la prima volta per lui al Cocoricò, una discoteca, una delle più famose a Riccione. Si è scoperto chi era il pusher. Il pusher è un suo compagno di scuola, 19 anni, ora distrutto. Però gli ha dato delle dosi che questo ragazzo ha diviso con altri ragazzi, sciogliendo una dose non di 0,3 grammi per sballarsi, ma molto molto superiore, non 0,3 grammi ma 3 grammi, quindi molto molto di più, ed è stata letale per Lamberto Lucaccioni. E tutti raccontano ovviamente di questa tragedia e gli sviluppi. Oh, va bene, siamo alle ultime due notizie anche in diretta su Periscope. Intanto per dire che c'è l'allerta caldo, sentite caldo? Oh, incredibilmente d'estate, sentite caldo? Ma sappiate che adesso arrivano tornado e grandine sull'Italia, così titola il giorno, tornado e grandine, quando finisce il caldo, Ma non è questa la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali oggi. So che molti mi odieranno per questo, compresa mia moglie, una pagina sul Corriere della Sera dedicata ai fanatici di True Detective, la serie che dà dipendenza o fa da terapia. Maria Laura Rodotà, molti mi odieranno, anche Lorenzo Nespoli, perché dice: la guardo tutti i giorni, una pagina su True Detective. Ma chi se ne frega!